Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e bentornati a tutti voi. Riprendiamo questa sera con le nuove puntate di Mr. Kilowatt. Beh, insomma, sono passati 2 mesi dall'ultima puntata e nel frattempo la morsa della crisi economica si è stretta ancora di più. Ormai sono veramente in molti a domandarsi, economisti di tutto il mondo, se non siamo di fronte a una crisi cosiddetta di sistema, cioè insomma il sistema economico nel suo complesso così non funziona più. Se però pensiamo al settore dell'energia, e così insomma veniamo subito a noi, questo dato è già presente, già assodato da alcuni anni. Da un lato c'è la questione ambientale, dall'altro lo spettro della fine del petrolio, perlomeno del petrolio a basso costo. Ebbene, questi fattori hanno messo in crisi qualche anno fa il sistema energetico, crisi più o meno profonda, ognuno al suo giudizio, ma servono proprio nuove fonti di energia e serve un nuovo paradigma energetico. E noi oggi abbiamo ormai una nostra tesi, cioè che la trasformazione è già iniziata. Ve l'abbiamo raccontata e continueremo a farlo, mixando tecnologia, buone pratiche e politica, che proprio nelle prossime settimane è chiamata a molte scelte decisive in campo energetico. Ed è proprio da qui che cominciamo stasera. Analizzeremo il PAE, cioè il Piano Nazionale di Azione per Efficienza Energetica, che è stato appena spedito a Bruxelles. Ci aiuterà ad addentrarci nei meandri di questo piano Dario Di Santo, che è direttore di FIRE, la Federazione Italiana per gli Usi Razionali dell'Energia, che molti di voi ormai conoscono. Buonasera Di Santo. Buonasera a tutti, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Dunque Dario, anzitutto ecco, aiutaci a capire che cos'è il PAE e poi se contiene qualcosa di vincolante. Allora, il PAE è un documento che è previsto da direttiva 32 del 2006 sui servizi energetici, che fissava un direttiva certo europea, di quindi sì, della Comunità Europea, che fissava un certo obbligo di risparmi al 2016, in particolare circa l'1% l'anno. È un documento che serve a fare il punto della situazione all'Unione Europea per poi definire le politiche del domani e che dà la possibilità agli Stati membri a loro volta di capire a che punto sono arrivati e di decidere come andare avanti. E noi a che punto siamo arrivati? Beh, noi siamo messi abbastanza bene se vediamo il macro dato dei risparmi conseguiti, perché siamo andati oltre a quello che era l'obiettivo che ci eravamo dati nel piano del 2007, l'edizione precedente. D'accordo, siamo al 3,6% contro il 3% che avremmo dovuto raggiungere. Però contemporaneamente c'è anche un altro obiettivo fissato successivamente dall'Unione Europea, cioè quello del 20% di risparmio energetico al 2020, che mi sembra un po' difficile si possa conciliare con quello che c'è scritto nel PAE, che punta al 9% al 2016. E quindi Dario, come andrà certo a finire? L'Unione Europea dopo si è data delle politiche molto più stringenti e forti e quindi è andata ben oltre all'obiettivo che si era data nel 2006. Questo vuol dire che se noi riusciamo a raggiungere l'obiettivo al 2016 limitandoci esclusivamente all'obiettivo minimo, poi dovremo fare un bello sforzo negli ultimi 4 anni per raggiungere il 2020, che tra l'altro è cogente e quindi è più delicato come obiettivo. Questo è il motivo per cui noi dobbiamo essere abbastanza bravi ad andare oltre agli obiettivi della direttiva 2006-32. Ecco, voi avete fatto alcune rilevazioni al PAE, in particolare avete segnalato che non abbiamo molto bene il polso della situazione, se ho capito bene. Sì, in Italia mancano dei fondi specifici per finanziare attività di monitoraggio e di raccolta di dati che consentano di fare un quadro preciso di dove si è. E infatti sul PAE si trova scritto che i dati sono basati sui meccanismi di incentivazione, mm-hmm, i risultati conseguiti al loro interno e non su globalmente tutto quello che si è fatto sull'efficienza energetica, il che da un lato ci autorizza anche a dire ma allora siamo andati ancora oltre in termini di risparmi raggiunti. La risposta è sì, però purtroppo se noi non conosciamo bene la situazione attuale è difficile fare pianificazioni e leggi che siano veramente efficaci. Ecco perché forse servirebbe destinare qualche fondo a finanziare questo tipo di attività. Ecco Dario, al di là del PAE, che come abbiamo visto è un documento che serve più che altro a fare il punto della situazione, conteranno molto invece le decisioni che verranno prese da qui a qualche settimana. Parliamo per esempio dei decreti attuativi della legge 28 dello scorso marzo, nella quale c'è stato un riordino abbastanza significativo di vari settori che afferiscono insomma all'efficienza energetica e alle rinnovabili. Al di là di tutti i tecnicismi, insomma, quali sono i temi più caldi su cui ci si aspettano decisioni importanti? sono da un lato la revisione del meccanismo dei certificati bianchi, che riguarda quindi tutta l'efficienza. Si cercherà di semplificarlo e di potenziare l'entità dell'incentivo. D'accordo. Secondo, verrà introdotto un nuovo schema di incentivazione per i piccoli interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili termiche. Sì, cioè qualcosa di simile al conto energia, che però viene riconosciuto a chi produce calore con le fonti rinnovabili e non elettricità. Sì. Esattamente, poi infine sono appena uscito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che fissa un nuovo incentivo per la cogenerazione ad alto rendimento, migliorando la situazione rispetto al precedente. Ecco, ovviamente però da qualche parte bisogna prendere i soldi, no, per finanziare tutte queste attività. Per il momento pesa tutto sulle bollette elettriche, si parla di mettere un contributo anche nelle bollette del gas. Tu cosa ne pensi, Dario? Altri propongono di andare sulla fiscalità generale, insomma sulle tasse. Ma io ritengo che da una parte è giusto allargare anche al gas il contributo, si potrebbe fare anche sugli altri combustibili. D'altro canto ritengo che sia meglio mantenerlo sulle tariffe per due motivi fondamentalmente. Il primo è che in questo modo si evita di dover lottare ad ogni finanziaria per mantenere il quadro di incentivi, e vista la volubilità della nostra classe politica è sempre meglio avere qualche certezza in più. No, tra l'altro è molto importante invece per i programmi che fanno le aziende di sviluppo, certo, poter contare sul lungo periodo, fa una bella differenza. Certo. E in secondo luogo perché mantenendo sulle tariffe si dà anche un segnale corretto di prezzi. Se è vero che il prezzo dell'energia continuerà a salire nel futuro e sarà sempre più da una parte un fattore di competitività per le imprese e dall'altra un fattore di non povertà per le famiglie, è bene che si stimolino investimenti per ridurre i consumi. Per quanto riguarda le fasce deboli invece si può intervenire con iniziative mirate. Va bene, grazie Dario. Grazie a voi. È tutto, a domani.